24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9 con 24 mattino, una nuova puntata. E siamo anche su Facebook, ci trovate così, e su Twitter @24mattino oppure @talino Milan, che sono io. E saluto Peter Bescapè. Manco mi ricordo il cognome, insomma l'Alpino, ecco, più semplicemente l'Alpino, con Diego Rovelli, anche lui in redazione, al di là del vetro. Oggi avremo la senatrice, vicepresidente del Senato, Emma Bonino, alle 8:20 per parlare di attualità politica, e poi parleremo anche della notizia che ieri ha incuriosito molti, lavori al Senato ma anche alla Camera, e l'indennità di palazzo. Gente che ci ha scritto: vado anche a pulire i cessi pur di lavorare alla Camera. Vabbè, insomma, al di là della demagogia, per avere l'indennità di palazzo ne parleremo alle 8:30, cercheremo di capire di cosa si tratta. Ora andiamo a scoprire cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Mercoledì 20 giugno, estate, ormai, quasi estate, il caldo almeno, articoloni sul caldo, bevete tanto, mi raccomando, non andate con lo scafandro alle 2 del pomeriggio a fare una passeggiata sotto il sole, tenete gli anziani, ovviamente curateli, dite di stare a casa quando ci sono 45 gradi sotto la canicola, mangiate tanta verdura e frutta, a posto? Abbiamo finito con i consigli illuminanti dei telegiornali e dei giornali. Allora, i titoli: Il Sole 24 Ore, Monti, 10 giorni per salvare l'euro. Questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera, un argine alla speculazione. Repubblica, allarme casa, crollano le vendite. La Stampa mette la foto di Mubarak, clinicamente morto Mubarak, l'ultimo faraone. In realtà poi c'è un giallo, non si sa, forse è risorto nella notte, comunque non è ancora, non è morto, insomma, sta malissimo ma non è morto, in realtà l'ha smentita. Il piano per fermare lo spread, questo è il titolo di apertura del Messaggero. E poi la definizione del presidente di Confindustria, boiata sulla riforma del lavoro, prende da spunto per molti titoli. Libero, la boiata di Monti. Il Manifesto, bella boiata e altri 55.000 lavoratori da tutelare. Il Giornale, se è una boiata non votatela. L'Unità invece, esodati, Fornero dà i numeri. Mentre il Fatto Quotidiano torna sempre sulla trattativa Stato-mafia, insiste, nuovi sviluppi, volevano scippare l'inchiesta alla Procura di Palermo, questo è il titolo d'apertura. Avvenire invece apre sulla tragedia del mare, sciagura al largo della Puglia, naufragati e venduti, i drammi dei migranti, questo è il titolo di apertura d'Avvenire. Ma vogliamo iniziare con una bella grassa risata? Tanti articoli sul taglio delle province, cari ascoltatori, eccoci qua. Tagli delle province, Monti ci riprova. Pagina 10 della Stampa. Oppure il Secolo XIX, servono soldi, morte anticipata per 20 province. Il taglio farà risparmiare fino a 2 miliardi. Il problema è che questi sono annunci che abbiamo sentito talmente tante volte che uno non ci crede più. E anche addirittura l'apertura di prima pagina del quotidiano Italia Oggi. Province, in questo caso il governo ci ripensa e quindi una marcia indietro. Comunque leggiamo da Alessandro Barbera a pagina 10 della Stampa, tagli delle province, Monti ci riprova. Abolizione delle province, alzi il braccio chi almeno una volta nella vita non ha letto un articolo che la promettesse. Sul tema il governo Berlusconi sfiorò il ridicolo, prima ipotizzò di cancellarle, poi di abolirle sono alcune, poi di tenere in piedi quelle dell'estremo nord governate dalla Lega, si inventò così l'eccezione per quelle di confine, alla fine sono ancora tutte lì, con l'eccezione delle sarde tagliate a furor di popolo per referendum. In verità il decreto Salva Italia, quello di Monti, l'abolizione dei consigli provinciali le prevede, Ma la lobby, messasi subito all'opera, ha bloccato la legge che avrebbe dovuto attuarla. Sono rimaste nel limbo solo alcune province, quelle in cui si sarebbe dovuto andare a votare, e ora sono governate da un commissario. Ora siamo al dunque. Anche questa c'è da dire, la frase che abbiamo sentito tante volte. Siamo al dunque. Il Premier ha deciso di portare al vertice europeo di fine mese un pesante pacchetto di tagli. 30 miliardi in 3 anni, 5 quest'anno, 12 l'anno prossimo, 13 nel 2014. E allora, entro la fine dell'anno, il governo ha deciso a cancellare circa 40 province. Segnatevelo, cari ascoltatori. Segnatevelo. Poi alla fine dell'anno, 40 province dovrebbero essere cancellate. Attenzione agli accorpamenti. Ora do dei nomi di province. Così se voi già avete le guerre di campanile, ora siete pronti proprio alla guerra vera e propria, civile. Torino dovrebbe rimanere in Piemonte, Torino, Novara dovrebbe accorpare Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola. Come andate? Andate d'accordo? Alessandria assorbirebbe Asti. Andate d'accordo voi, cittadini di Alessandria e di Asti? Vi mettete insieme? In Toscana si sa, lì partono mazzate, no? Firenze accorperebbe Prato e Pistoia. Mi sa che non andate tanto d'accordo. Mentre sparirebbe Siena, così come sparirebbe Massa Carrara. Questo è il progetto, entro la fine dell'anno, cari cittadini di Pistoia e di chi? E di Prato, siete destinati ad andare con Firenze. Voglio poi segnalarvi, prima della pubblicità, un intervento carta e penna di Adriano Celentano. Questa volta Adriano Celentano, il molleggiato, scrive appunto una lettera pubblicata in prima pagina di Repubblica per chiarire la vicenda del suo ingaggio per Mediaset. Farà 2 concerti dal vivo all'Arena di Verona, un evento che non c'è da 18 anni, e ha fatto scalpore perché non sarà in Rai. La versione di Adriano, ecco come sono stato scaricato dalla Rai. Adriano Celentano spiega che la trattativa con la Rai c'è stata. Non avrei detto niente, caro direttore, se quel Pinocchio matricolato di Leone non avesse mentito spudoratamente quando ha dichiarato ai giornalisti che tra il clan, cioè il clan Celentano, e la Rai non c'è stata alcuna trattativa. Giancarlo Leone, direttore dell'intrattenimento Rai, eccolo qui che Celentano riepiloga come è andata la vicenda. Claudia Mori chiamò proprio Giancarlo Leone dicendo: facciamo 2 concerti all'Arena di Verona. Vogliamo sapere se la Rai fa i salti di gioia ed è disponibile ed eventuali riprese in diretta. Leone dice: penso proprio di sì. Poi dopo un paio di giorni richiama e dice: purtroppo devo dire che la Rai si trova in un momento assai critico. La situazione che stiamo attraversando è tale che non saremmo neanche in grado di pagarvi i diritti. Ma questo non sarebbe un problema, rispose Claudia Mori. Questa è la lettera di Celentano. Noi possiamo anche fare a meno dei diritti. Voi dovreste solo coprire il costo delle telecamere per riprendere l'evento, nient'altro. Sì, lo so, rispose Leone, ma oggi la Rai non può permettersi neanche quello. Mi creda, mi dispiace. Claudia rimase senza parole. Lei è sicuro di quello che dice? Sono 18 anni che Adriano non appare in un concerto live. Non pensa che questo valga almeno il costo del trasporto delle telecamere? Ma le ultime parole di Leone sono state: lei ha ragione, ma non è colpa di nessuno. Mi creda. Risultato? Scrive Celentano, quei 10 milioni di persone che mi vedranno l'8 ottobre e altri 11 il giorno dopo sopperiscono a un tour di 1 anno. Mi misi il cuore in pace, sotto un certo profilo devo dire che non mi dispiaceva affatto, quasi come se la devastante ottusità della Rai mi avesse salvato da un impegno che al confronto è meno faticoso fare Milano-Roma a piedi, ma nel mezzo della ritrovata libertà ecco che tramite Gianmarco, il figlio, e Lucio Presta mi arriva da Mediaset una proposta incandescente. Qualunque cosa dicesse Celentano, noi siamo pronti a incontrarlo anche di notte, basta che lui ci faccia un fischio. Devo dire che io so fischiare molto bene. La trattativa l'ha fatta Claudia Mori, in 48 ore abbiamo chiuso l'accordo. Così insomma Adriano Celentano racconta: la Rai mi ha scaricato, la Rai ottusa, e in 48 ore ecco perché sarò a Mediaset. Trovate la lettera su Repubblica e ci ritroviamo tra 5 minuti. Le 7:35 minuti, siamo qui. Allora, la situazione finanziaria internazionale, gli occhi sono ancora puntati sulla Grecia, ma anche sul Messico, sul G20, lo Skavos, dove si è concluso appunto questo G20. Allora, intanto Atene. In Grecia pare che oggi sia il giorno in cui verrà varato il nuovo governo. Un nuovo governo che dovrebbe essere annunciato oggi e chiederà aiuti per 31 miliardi. Questo ha scritto almeno un quotidiano greco riportato da Davide Frattini sul Corriere della Sera. Pagina 8, l'articolo è: Atene vara oggi il nuovo governo. I risparmiatori greci cominciano a riportare i soldi nelle banche. 31 miliardi sarebbe dunque la richiesta già all'Eurogruppo di domani. Ad Atene ne servono 25 solo per ricapitalizzare le banche. E vediamo se il vincitore delle elezioni, Samaras, riuscirà a imbarcare i socialisti e Sinistra Democratica, alcuni fuoriusciti dal gruppo di Siriza, appunto il gruppo di sinistra. Insomma, se ci sarà un nuovo governo e poi una richiesta anche concreta di quanti soldi per Atene. Intanto, appunto, concludendo i lavori del G20 in Messico, Mario Monti, e questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 5, ha detto 10 giorni per decidere. Tra l'altro è stata fatta una proposta concreta, questa Angela Merkel, che voi dovete immaginare sempre fredda, rigorosa, dura, tanto che adesso molte persone, anche con un gioco un po', noi la mettiamo sempre sul calcio, con un gioco un po' stupido, insomma, dicono: tiferemo Grecia contro la Germania. No? Ci sono i quarti di finale degli europei, credo, giovedì, Germania-Grecia, no? E tutti vedono in questa sfida non solo una sfida di calcio, ma proprio il destino che ha messo di fronte il rigore di Angela Merkel e la Grecia che tenta in qualche modo di risollevarsi. Comunque, c'è la proposta che Mario Monti ha fatto. L'Italia ha fatto la proposta anticipata dal Financial Times perché il fondo salva stati possa acquistare bond di paesi periferici come Spagna e Grecia. Un problema che Monti dice non si pone per l'Italia, non si pone per la Spagna, o meglio limitatamente alle banche, ma questa sarebbe la proposta sulla quale Angela Merkel non ha detto di no, ma insomma si è riservata di decidere. Poi il 28-29 giugno il Consiglio europeo darà la sua ricetta. Mario tenta la Merkel anche su Repubblica: compriamo bond con il fondo salva stati. Questa è la vera proposta che è uscita nel tavolo ristretto del leader dei G20, scrive Francesco Bei su Repubblica, pagina 7. Il premier italiano ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, ha illustrato la proposta del ministro Moavero. Ha detto che il fondo salva stati dovrebbe poter intervenire per acquistare sul mercato secondario i titoli pubblici dei paesi sotto pressione quando lo spread supererà un tetto stabilito per ogni stato. Un progetto che comporta necessariamente la trasformazione del fondo in qualcosa di molto diverso. Angela Merkel, che ha detto, non ha detto di no, non si è voluta impegnare. Ci farà sapere, Angela Merkel, ci farà sapere che ne pensa. Al di là di tutto, secondo me la provocazione più interessante oggi sui giornali riguardo al G20 la trovate in prima pagina del Giornale, dove il direttore Alessandro Sallusti fa questo commento. Ricordate lo slogan di Nixon, il presidente pasticcione, intrallazzone, incapace di risolvere i problemi degli americani? C'è lo slogan coniato contro Nixon, no? Comprereste una macchina usata da quest'uomo? I democratici di fronte a Nixon misero la foto di Nixon dicendo: comprereste una macchina usata da quest'uomo? Ecco, Alessandro Sallusti fa la stessa cosa, pubblica la foto dei leader del G20, tutti sorridenti, da Obama, c'è anche il nostro Mario Monti, tutti i leader mondiali, e si chiede la stessa domanda che mi viene in mente guardando la foto ricordo dei grandi del mondo scattata al termine dell'ennesimo inconcludente vertice. Comprereste una macchina usata da gente che, dopo averci trascinato a vario titolo in questo casino planetario, ora non ha la più pallida idea di come tirarci fuori? In questi anni i cosiddetti grandi del mondo non ne hanno azzeccata una. Grazie all'impuntatura della Merkel non hanno salvato la Grecia, hanno avuto mani libere contro di noi, con la benedizione di Obama hanno tagliato la gola a Gheddafi, l'unico amico che l'Europa aveva in Nord Africa, hanno spianato la strada all'insediamento di regimi islamico integralisti, hanno pensato di fermare la carneficina siriana con l'invio di osservatori disarmati. L'elenco sarebbe a lungo. Alcuni dei responsabili, come Zapatero e Sarkozy non sorridono di fronte ai fotografi accreditati, non ci sono più. Non nomina Berlusconi, Sallusti, non so, forse qualcuno potrebbe aggiungere anche Berlusconi, di quelli che non ci sono più e hanno portato tra i leader mondiali, visto che c'era sempre a questi vertici, al disastro attuale. In ogni caso, questo per l'Europa. In Italia invece la definizione molto caustica del presidente di Confindustria Squinzi, che ha definito una boiata la riforma del lavoro, dà lo spunto e la stura per tantissimi articoli, titoli di apertura di prima pagina. Cosa ha detto Squinzi? La riforma del lavoro è una vera boiata, ma ce la dobbiamo tenere e dobbiamo votarla poi nella speranza di modificarla. Il titolo di Le Sole 24 Ore è più sfumato: lavoro, ora il sì, poi modifiche. Ma Nicoletta Picchio racconta all'interno proprio la definizione molto dura: è la riforma del lavoro è una vera boiata, ha detto Squinzi. E infatti questo termine lo trovate un po' dappertutto. C'è chi rispolvera Fantozzi, no? Ricordate la corazzata Potemkin, il film che era costretta a vedere dal mega direttore generale, anche credo durante le partite dell'Italia, che fu definito nel primo Fantozzi una boiata pazzesca. Poi nella trasposizione cinematografica credo che sia anche una cagata mostruosa, cioè, tecnicamente. Però la boiata del professore, questo è il titolo per esempio di Libero, in prima pagina. Oppure a pagina 11 del Corriere della Sera: Confindustria boccia la riforma, una boiata anche se è da approvare. Tra l'altro Squinzi ha avuto anche parole molto dure nei confronti del decreto sviluppo. Su 183 pagine, ha detto, mi son fermato alla trentesima, non riuscivo a capire e già mi fumava la testa. Battute ma molto molto acide nei confronti dei provvedimenti del governo. Tra l'altro la questione della riforma del mercato del lavoro ieri ha visto protagonista il ministro del welfare Fornero, che è andato al Senato. Noi parleremo alle 8:20 anche col vicepresidente del Senato Emma Bonino, che sarà nostro ospite, e ha dato nuovi numeri riguardo agli esodati da salvaguardare. La salvaguardia per altri 55.000 esodati, quindi con i 65.000 di prima siamo a 100, no, quanti erano prima, insomma, altri 55.000. Sì, con i 65.000 andiamo a 120.000. Tavolo tecnico per le coperture, nessun aumento contributivo. Tutti i dettagli li trovate con Davide Colombo a pagina 9 del Sole 24 Ore. È stata individuata dunque un'altra platea di circa 55.000 esodati, 40.000 in mobilità ordinaria a seguito di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento successiva il 4 dicembre 2011, lavoratori che potrebbero rientrare nello status di salvaguardati maturando il requisito per la pensione entro la fine del periodo di mobilità. È molto dura l'Unità, in prima pagina il titolo è esodati, Fornero dà i numeri, la ministra ammette di aver sbagliato, parla di altri 55.000 da salvaguardare ma non indica le soluzioni. Anche per il Corriere a pagina 10 il ministro ammette altri 55.000 da tutelare, sono 6 le ipotesi sul tavolo. Tra l'altro c'è da dire che ci sono soprattutto critiche sul metodo che ha portato un molto pasticciato, confuso, un percorso travagliato. Ieri ancora il ministro Fornero ha criticato l'INPS dicendo i dati che sono stati diffusi, 390.000, sono dati parziali, sono dati sbagliati. Arrivano tante critiche e un endorsement clamoroso, cioè clamoroso anche nel quasi definito più che una dichiarazione politica, una dichiarazione quasi sentimentale. Giuliano Ferrara sul Foglio mette tutto il discorso di Elsa Fornero, silenzio in Senato, parla Fornero, lo ripropone tutto e poi fa un commento dal titolo Divina Elsa, la mia morosa ideale. Così Giuliano Ferrara, la borghese di sinistra, per di più torinese, che mi piace immaginare della razza di Gozzano, una malinconica non mai turbata dalla retorica dei gobettiani, si scontra con le trappole, sanguina ma non le evita, rende conto del lavoro che fa con equilibrio adamantino, han tentato di tutto contro di lei come contro Ichino e altri, campagne personali, inviti a tacere, insulti alla sua buona fede e alla sua intelligenza, minacce di vario ordine e grado, insolenze alla famiglia, isolamento politico. Insomma, una vera dichiarazione d'amore, dice Ferrara, dichiarazione politica in forma surrettiziamente sentimentale, è la mia morosa ideale, e conclude Ferrara nella sua bocca divina una giungla di cifre, di verità difficili contro il grande fratello degli esodati, puttanata plateale costruita per distruggere l'unica vera riforma degli ultimi 50 anni. Così Giuliano Ferrara sul Foglio. E poi quando rientreremo tra poco dopo pubblicità e il traffico vi darò un'altra cosa che dovete ricordare, ricordatevela, che in Italia il problema è soprattutto la mancanza di memoria. E allora ve lo propongo come lo propone Riccardo Barenghi alias Iena a pagina 3 della Stampa, quando ieri il ministro Passera ha escluso aumenti dell'IVA. Ricordatevelo, quando sarà aumentata e lui scenderà in politica. Così Riccardo Barenghi, così Iena oggi sulla Stampa, pagina 3. Oggi è il giorno anche in cui al Senato si deciderà sulla richiesta d'arresto per Lusi, l'ex tesoriere della Margherita. La giunta per l'autorizzazione a procedere ha detto si proceda all'arresto, che poi sono arresti domiciliari, sono chiesti gli arresti domiciliari, non il carcere. Oggi l'aula del Senato si esprimerà. In teoria bisogna rispettare, se si rispettano le proporzioni, il voto della giunta, però come nel caso De Gregorio la giunta aveva detto si proceda agli arresti domiciliari e poi l'aula nel segreto dell'urna ha votato per respingere questa richiesta. Il segreto dell'urna, il voto segreto, deve essere richiesto almeno da 20 senatori. Allora ecco che, e questi 20 senatori devono uscire allo scoperto, cioè devono firmare e chiedere il voto segreto. Eccolo qui allora, manovre PDL per salvare Lusi, Grillo già esulta, pagina 8 dell'Unità, secondo Federica Fantozzi, oggi il Senato vota l'arresto di Lusi e a destra si raccolgono le 20 firme per il voto segreto, un'operazione che cercano di fermare, alcuni anche del PDL, per esempio Crosetto del Popolo della Libertà ha detto così, se non prendiamo a calci Lusi, i calci li prendiamo noi. Come dire, nessuno si azzardi a fare la richiesta di mettere una delle 20 firme per richiedere il voto segreto. In realtà c'è tempo fino all'ultimo minuto, si vota oggi pomeriggio dalle 16, fino all'ultimo minuto per richiedere il voto segreto. È chiaro che bisogna mettersi d'accordo in 20 e pare che ci siano trattative quasi carbonare nella notte, cioè raccogliamo 20 firme, tu firmi, mi raccomando, però non diciamolo a nessuno fino alla fine, forse per palesarsi all'ultimo minuto e dire signor Presidente del Senato chiediamo il voto segreto. Staremo a vedere. Certo, il palazzo osserva questo giorno, il giorno di Lusi, anche il Corriere della Sera con Dino Martirano a pagina 15, giallo sulle 20 firme per il voto segreto, ci saranno oppure no? Intanto trovate ancora tantissimi articoli, la vicenda si sta ingigantendo sui giornali, sulla questione della trattativa Stato-mafia, l'inchiesta che coinvolge anche l'ex senatore e ex ministro dell'interno Nicola Mancino e le telefonate che lui ha fatto al consigliere del Quirinale di Napolitano Loris D'Ambrosio, il consigliere giuridico, perché preoccupato per questa inchiesta telefonava dicendo non è che si può interessare per esempio il procuratore antimafia Grasso. Volevano scippare l'inchiesta alla procura di Palermo, questo è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano, tutti i giornali oggi hanno lo sbobinato delle intercettazioni, delle telefonate di Nicola Mancino e il consigliere giuridico del Quirinale D'Ambrosio. Pagina 22 del Corriere della Sera, per esempio Giovanni Bianconi, il 12 marzo scorso, Mancino chiama D'Ambrosio, io ho parlato col presidente, ho parlato anche con Grasso, non vediamo molti spazi purtroppo, adesso probabilmente il presidente parlerà con Grasso nuovamente, vediamo un attimo di vedere anche con Esposito, che è il procuratore generale della Cassazione, e D'Ambrosio, io gliel'ho detto pure oggi a Grasso, mi ha risposto va bene, ma io in realtà è lui che non vuole fare, così dice D'Ambrosio, insomma. Le telefonate sono queste, cioè l'interessamento di Mancino presso D'Ambrosio che dice adesso il presidente parlerà con Grasso, E di fronte a tutto questo Marco Travaglio, in prima pagina del Fatto Quotidiano, scrive: a questo punto, di fronte alle intercettazioni telefoniche depositate dalla Procura di Palermo e che pubblichiamo, i casi sono due. O Loris D'Ambrosio, consigliere giuridico del Presidente della Repubblica, millantava credito con Mancino, raccontandogli che Napolitano si era preso a cuore le sue lagnanze contro i PM di Palermo, al punto di parlare del suo caso col procuratore nazionale Grasso perché facesse qualcosa. Oppure D'Ambrosio diceva la verità. Dunque davvero il capo dello Stato è personalmente intervenuto con Grasso per conto di un testimone interessato e poi indagato per reticenza. Nel primo caso D'Ambrosio dovrebbe avere la sensibilità istituzionale di dimettersi. Nel secondo caso, beh, dite un po' voi chi dovrebbe dimettersi. Che si affannino a sostenere i portavoce ufficiali e ufficiosi del Quirinale, qui c'è da rimuovere un macigno grosso così. Il trattamento privilegiato che un potentissimo ex politico come Mancino ha ottenuto dalla più alta istituzione dello Stato in una vicenda che l'ha visto inizialmente nelle vesti di testimone, poi di indagato, per falsa testimonianza. Per giunta su una vicenda tra le più gravi e drammatiche della storia repubblicana, le trattative tra Stato e mafia che fecero da sfondo alle stragi mafiose del 92-93. Così Marco Travaglio in prima pagina. Certo, tutti i giornali pubblicano anche l'irritazione del Quirinale. Secondo Umberto Rosso su Repubblica si tratta di una campagna politica, ma certamente c'è molto da discutere di questa vicenda. Vado alla chiusura. Due cose. Ricordate la vicenda dei 5 bambini in prima elementare bocciati a Pontremoli? Ce ne siamo occupati. Il Ministero ha bloccato tutto. Bocciati alle elementari, stop del Ministero, pagina 19 di Repubblica. Il diktat degli ispettori sul caso Pontremoli: ci sono troppe anomalie, riconvocate il consiglio di classe. E infine, era di qualche giorno fa, ma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non è una barzelletta, proviene dalla Regione Sicilia, è stato fatto il bando per creare la Commissione per lo sci nordico in Sicilia, e la Commissione per l'abilitazione a maestro di snowboard. A pagina 8 del giornale Paolo Bracalini: la Sicilia scopre la neve e arruola maestri di sci nordico. Mannaggia, ci eravamo scordati che c'era la neve anche in Sicilia, come a Bressanone. Vabbè, andiamo al giornale radio. 24 mattino. Eccoci alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui per l'attualità politica di oggi. Voglio salutare la vicepresidente del Senato, Emma Bonino, dei Radicali. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Senta, oggi al Senato, giornata importante, si vota sulla richiesta d'arresto per l'ex tesoriere della Margherita Lusi. La sua posizione qual è? Sì all'arresto? La mia posizione è che il Parlamento è chiamato solo a giudicare se esista o non esista, come si dice, il fumus persecutionis contro Lusi. Ora, a me pare davvero che il fumus persecutionis non esista in questo caso, e quindi voterò a favore della richiesta della Giunta, essendo inteso però che il problema della carcerazione preventiva, che non è quello che si discute oggi, è un vero problema, un vero cancro nel nostro paese che andrebbe modificato, e noi radicali abbiamo fatto diverse proposte di iniziativa parlamentare mai discusse, mai approvate, ma ripeto, non è questo che si discute oggi. Sono due problemi l'altra questione. Esatto, sono due problemi staccati, però sa che incombe questa possibilità da parte di 20 senatori di richiedere il voto segreto. Possono farlo fino all'ultimo momento. Certamente. È opportuno, non è opportuno? No, io credo, certo, dal punto di vista regolamentare si può fare ed è stato fatto recentemente sul caso De Gregorio, ma già anche sul caso De Gregorio io credo davvero che sia sconveniente, nel senso che in questioni di questo tipo, e sempre d'altronde a mio avviso, è bene che i rappresentanti del popolo assumano in modo limpido, diciamo, le proprie responsabilità e quindi anche il loro voto, non è che stanno sono minacciati, che ne so, di finire in carcere o cose di questo tipo. Non corrono nessun rischio, salvo il fatto di dare appunto un'assunzione di responsabilità. C'è chi voterà sì, chi voterà no, ma è molto bene che questo venga fatto in modo aperto e appunto non nel segreto dell'urna, che è ovviamente possibile dal punto di vista regolamentare, ma io trovo politicamente davvero molto molto discutibile. Ma lo fanno apposta, cioè lo si fa apposta proprio per fare evidente, i salvataggi trasversali. Questo è evidente e in effetti il punto essenziale è se si troveranno questi 20 senatori che chiedono il voto segreto o se non si troveranno. Sa cosa ha detto per esempio Crosetto del Popolo della Libertà? Ha detto: se non prendiamo a calci l'USI, prendono a calci noi. Cioè questa immagine che viene evocata dei forconi sempre sulla porta del Parlamento pronti ad agire, lei come la vede? La classe politica ha dato da decenni non esempi eccelsi di comportamento sano, di comportamento serio e di assunzione di responsabilità, creando così anche tutta una serie di disaffezione dai cittadini che si sta tramutando peraltro in rabbia e molto spesso anche, devo dire, in demagogia. Ma l'unico modo di rispondere a questo andamento è quello di appunto tornare ad essere dei rappresentanti del popolo responsabili, seri e capaci di assumersi i loro sì e i loro no. Senta, ieri il ministro Fornero ha parlato al Senato proprio del tema degli esodati. Intanto lei li ha capiti questi numeri, cioè sono definitivi? È stato un pasticcio, non è stato un pasticcio? È stato tutto molto chiaro? Come lo giudica? No, io presiedevo la seduta, quindi ho seguito con grandissima attenzione. In effetti il ministro Fornero ha detto che sotto il termine esodati sono confluiti tutta una serie di fattispecie totalmente diverse di lavoratori e che effettivamente, visto anche gli accordi territoriali, non è semplice arrivare a dei numeri chiari e definitivi. Sono chiari quelli di quest'anno, sono meno chiari quelli dei prossimi anni, proprio perché riguardano spesso persone con accordi fatti dalle aziende a livello territoriale e non a livello nazionale. Ma come, lei come lo giudica questo? Cioè è normale, è giusto, è legittimo che ci sia? No, io non credo che sia normale, credo sia, però ieri il ministro ha assunto la responsabilità di dire: guardate, è una situazione meno semplice di quello che pensavamo e di quello che poi è risultato. Non è il caso di fare terrorismo o 400.000 o di dare i numeri, letteralmente, è il caso di ponderare e di riuscire a capire esattamente di quante persone, appunto persone, stiamo trattando. Io credo che un'analisi più approfondita delle cifre che sono state date ieri possono dare anche il senso delle possibilità di soluzione del problema che il governo si è impegnato a trovare. Quindi a me pare che ieri sia stata una giornata sulla via del chiarimento, in una situazione che è davvero molto molto complicata. Sì. Forse neppure il governo sapeva quanto fosse complessa. Mi dica invece un giudizio su questa riforma del mercato del lavoro, che il presidente di Confindustria ha definito una boiata, con un termine molto caustico, però va approvata lo stesso. Che però qualcuno dice: ma se è una boiata non dovrebbe essere votata. Insomma, posso dire che a volte, come dire, trovo che anche controllare un po' il linguaggio può essere utile. Io da radicale ritengo che non sia una riforma che soddisfa tutte le questioni che abbiamo posto da un sacco di tempo, dai referendum del 2000 e mai risolta. Come dice il professor Ricchino, credo che abbia dei punti di rilievo e faccia dei passi avanti. Credo che questa sia la situazione, come dire, non è dal mio punto di vista pienamente soddisfacente. Credo però, ad esempio, che l'introduzione degli ammortizzatori sociali universali, seppure tra qualche anno, sia un superamento totale della vecchia cassa integrazione, che è più iniqua non si può, in particolare la cassa integrazione in deroga. Quindi aspetti positivi sicuramente ce ne sono. Quindi una boiata si sarebbe no. potuto fare di più, questo è sicuro. Una boiata non lo è, ecco, lei dice. C'è qualcosa di migliorabile, ma il termine perentorio non le non piace. Non l'avrei usato, ecco. Senta, ma l'idea di votarla, perché a fine giugno c'è il Consiglio europeo e bisogna andare in Europa con qualche compito a casa fatto, è un'idea giusta oppure ma anche... Posso dire, io trovo questa cosa veramente irritante. Io penso che queste riforme e le prossime che sono annunciate vanno fatte soprattutto per noi, per rimettere questo paese che ha dormito, incrostato, occupato dai partiti per tanti e tanti decenni, per rimetterci in qualche modo di nuovo in marcia verso una situazione più sana e un'economia anche più competitiva. Questa idea che tutto vada fatto perché c'è un'Europa cattiva che ce lo impone, io la trovo veramente, come dire, quello di non guardarsi mai dallo specchio e trovare sempre che c'è qualcuno che ci vuole male e che ci impone chissà che cosa. Anzi, penso che queste riforme le avessimo fatte, ripeto, magari col pacchetto referendario radicale nel 2000, non saremmo oggi nel 2012 a fare delle corse spettacolari, perché vorrei chiarire, questo sì, che la situazione della crisi finanziaria globale, questa non è affatto esaurita, e ha ragione Monti quando dice abbiamo davanti 10 giorni decisivi. Io credo davvero, proprio per questo organizziamo questo grande evento il 22, perché davvero credo che per l'Europa i prossimi giorni sono determinanti. Senta, ma lei le farebbe, cambiando tema, le primarie del centro-sinistra, se fossero aperte, di coalizione a tutti? No, guardi, io penso che le primarie si fanno nei paesi, infatti, e funzionano, nei paesi che hanno dove sono stabilite per legge, riguardano tutti e due gli schieramenti, dove fanno parte di un sistema complessivo, tipo Stati Uniti, giusto appunto. Ma questa idea italiana che si può prendere un mattone da una parte, un mattone dall'altra, e poi si fa un frullato per risolvere poi problemi interni, mica problemi di governo del paese, non le piace. L'ho sempre trovata francamente molto stupefacente. Le primarie si fanno come negli Stati Uniti e in altri paesi, nei sistemi bipartitici ad elezione diretta del capo dello Stato, mentre invece noi dobbiamo sempre fare le caricature all'italiana di spezzoni di istituzioni, ma spezzoni che in altri paesi funzionano nel loro complesso, non, ripeto, un mattone sì e uno no. L'ultima cosa, ma Emma Bonino ogni tanto lo sogna il Quirinale o no? Perché se ne torna a parlare sempre, potrebbe essere la prima presidentessa donna al Quirinale. Emma Bonino sa perfettamente di aver messo sempre la faccia su tutte le iniziative che ha assunto, sa che il Parlamento, cioè 1015 persone, che parlamentari che eleggono il Presidente della Repubblica, sa che pure se c'era molto sostegno popolare nel 99 su 1000 e più parlamentari, alla fine solo 15 scrissero il mio nome sulla scheda, quindi Emma Bonino è una persona che conosce perfettamente i meccanismi di questo paese. Quindi non la vedremo mai il Quirinale, mi sta dicendo. Mai non lo si dice mai nella vita, carità, particolarmente però in politica, che è una cosa così fragile. Va bene, la ringrazio, grazie. Buona giornata. Buona giornata Emma Bonino, vicepresidente del Senato dei Radicali. E noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo di questa indennità di palazzo che c'è appunto per esempio al Senato, che c'è alla Camera, che ieri Sergio Rizzo, che sarà nostro ospite tra poco, di cui ha scritto ieri sul Corriere della Sera, l'indennità di palazzo, cioè sei dipendente del Senato, dipendente della Camera, hai per questo un'indennità aggiuntiva. Boh. E che roba misteriosa è, tra poco. 24 mattino. Eccoci alle 8:37 minuti. Allora, nella vulgata si chiama indennità di palazzo. Ieri Sergio Rizzo sul Corriere della Sera scriveva che per esempio quest'anno al Senato è costata 3.570.000 euro per personale di altre amministrazioni, ex enti che forniscono servizi in Senato, ma così vale anche alla Camera. E quell'indennità che è concessa a tutti i dipendenti del Senato che, siccome per il solo fatto di lavorare nel palazzo, appunto nel Senato o nella Camera, hanno un'indennità aggiuntiva, quindi non so, forze di polizia che hanno un'indennità che arriva fino a 2.500 euro massimo per i gradi apicali, i vigili del fuoco che arrivano da 300 a 2.000 euro di indennità aggiuntiva perché sono distaccati al Senato, ma anche dipendenti della banca che sta all'interno del Senato o dipendenti dell'agenzia di viaggio all'interno del Senato. Insomma, di che si tratta? Ne vogliamo parlare con lo stesso Sergio Rizzo del Corriere della Sera, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, Sergio. Buongiorno. E poi con una delle associazioni sindacali. Oh, io intanto devo ringraziare moltissimo Cristiano Ceresani, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Lei buongiorno è il segretario dell'Associazione Consiglieri Parlamentari, perché noi, Sergio, qui devo dirlo, abbiamo chiamato un po' di persone, perché ci sono tantissimi sigle sindacali dei 900 dipendenti del Senato. Abbiamo chiamato l'UGL e Polizia di Stato, ci hanno detto che l'indennità lì serve perché devono vestirsi bene e quindi devono comprarsi le giacche, le cravatte, insomma, essere eleganti. I Vigili del Fuoco, del CONAPO, come sigla, la Funzione Pubblica, CGL, l'OSA, l'Organizzazione Sindacale Autonoma del Senato, che rappresenta vari lavoratori. Ma Sergio, non hanno voluto intervenire, non sono voluti intervenire, non sono qui a parlare. Invece ringrazio Ceresani per essere con noi. Intanto, Sergio Rizzo, è uno scandalo, è una cosa che è fuori di demagogia, ci sta tutta. Come lo dobbiamo definire questa indennità di palazzo? Ma dunque, secondo me non ci sta per niente, perché lo diceva bene Gustavo Selva in un articolo che scrisse sul Libro diversi anni fa, quando tirò fuori la cosa, cioè se bisogna dare l'indennità di palazzo aggiuntiva, diciamo così, per i servizi resi, perché non la diamo a quelli che sono per strada a combattere la mafia e la camorra? Cioè, è anche un ragionamento che tutto sommato, diciamo, condivisibile, no? Diciamo così. Non si capisce perché soltanto per il fatto di essere a contatto col potere devi prendere i soldi in più. No, sinceramente questo non riesco a comprenderlo. Effettivamente, insomma, non c'è molto altro da dire. No, ma infatti vorrei capire, Cristiano Ceresani, che cos'è questa anzitutto io vorrei, buongiorno a tutti, sì, vorrei dire che io sono, diciamo, un dipendente di ruolo, sono assunto per concorso, quindi, certo, diciamo, quindi è una categoria, rappresenta una categoria che è quella dei consiglieri parlamentari, che è, diciamo, completamente diversa dalla fattispecie evocata. In effetti questa di cui parliamo è l'indennità di palazzo, diciamo, è un retaggio del passato. Come tutte le cose, diciamo, un qualche, diciamo, fondamento e giustificazione potrebbe anche averla, perché anche gli orari che ci sono per le persone che prestano servizio e gravitano attorno al Parlamento sono differenziati. Ma in che senso? Detto questo, mi sembra che il... No, in che senso? Nel senso che lei si sta mettendo in un percorso pericolosissimo, no, perché no, la no, gente no, pensa ma io che... Non voglio ma le spiego. La gente pensa che in Parlamento non si lavori per niente. Lei ci sta dicendo invece che è giustificata per gli orari di lavoro. Sarebbe giustificata... No, guardi, su questo punto è diventato uno sport nazionale, me lo faccia dire. Il Parlamento italiano, e questo credo che il dottor Rizzo lo sa bene, lo sappia molto bene, è un Parlamento che ha un motore sempre acceso. I ritmi parlamentari, le sedute parlamentari, a confronto di altri parlamenti come la Francia, la Germania, lo stesso Parlamento europeo, che lavora per sessioni, quindi per periodi concentrati dove si svolgono le attività parlamentari, il Parlamento italiano è, per numero di sedute, per quantità di lavoro, in realtà un Parlamento che è molto attivo, è sempre operoso, acceso, H24 può passare. No, però su questo poi magari Rizzo ci dirà qualcosa. Però le volevo chiedere questo, Ceresani: non capisco perché dice, siccome siamo un motore sempre acceso, reperibilità credo H24, ci sono le sedute anche notturne a volte, eccetera, ma è solo per il fatto che un vigile del fuoco, un membro della Polizia di Stato sia distaccato e lavori all'interno del palazzo, del potere, per questo prende un'indennità aggiuntiva? Cioè, le sembra una cosa normale? Ma guardi, su questo le posso dire che non l'abbiamo chiesto noi. Il punto è che in un momento di ristrettezza di risorse, di contenimento della spesa, la via maestra alla Camera, negli organi costituzionali, come in tutto lo Stato, deve essere la selettività. Ci dobbiamo concentrare sul core business, ci dobbiamo concentrare sulle attività che servono la collettività, che aiutano i processi legislativi, che migliorano le leggi, che migliorano le politiche pubbliche. Quindi, se vuole sapere il mio punto di vista, è che in un momento di esigenze forti, severe, di contenimento della spesa, andrebbe tolto. È chiaro che occorre concentrarsi su dove si produce il valore aggiunto per la democrazia. Su questo, Sergio Rizzo, andrebbe tolta, credo che sia stata un po' diminuita, non so, Ceresani ci dice siamo un motore acceso H24, cioè le istituzioni sono un motore acceso, e quindi per questo c'ha una sua razio magari iniziale, l'idea di avere un'indennità aggiuntiva, no? Allora, un conto conto è il fatto che il Parlamento funziona in un certo modo, per carità, ci sono delle argomentazioni che sono anche condivisibili da questo punto di vista. Un conto è che tu riconosca a quelli che non sono dipendenti dell'istituzione ma lavorano lì dentro un qualcosa in più per il semplice fatto di essere lì dentro. Questo non accade soltanto al Senato, va detto, questo accade anche alla Camera, accade anche al Quirinale, accade anche alla, diciamo la verità, soprattutto a Palazzo Chigi, perché tutti i dipendenti di Palazzo Chigi, cioè i dipendenti, cioè quelli che sono distaccati a Palazzo Chigi, hanno anche loro il bonus. Allora, questa secondo me è una questione che non c'entra niente. Ma perché? Con la cioè, voglio dire, ma perché, Sergio? Cioè, come è motivato? Voglio dire, uno lavora perché lavora nell'istituzione che più contano dal punto di vista della Repubblica Democratica e quindi per questo. Oppure dobbiamo credere come il poliziotto che ci ha detto: ma serve perché dobbiamo vestirci sempre bene, cioè dobbiamo avere essere sempre impeccabili nel modo di presentarci e quindi dobbiamo sostenere qualche spesa in più. Ma perché l'Italia è così? La risposta è semplice, l'Italia è tutta così. L'Italia è un paese dove ci sono più di 50 trattamenti previdenziali diversi, l'Italia è un paese dove tu hai decine e decine di contratti di lavoro atipici, l'Italia è un paese dove ogni categoria, ogni micro categoria si fa il suo, e questo è il punto. Cioè, se non si arriva a capire che non si può più andare avanti così, non cambieremo mai. No, io vorrei tra l'altro riepilogarle queste indennità, cioè chi è impiegato alle poste, ma è distaccato nelle poste all'interno del Senato, prende da 200 a 1000 euro in più, cioè è un dipendente delle poste come tutti, ma per il fatto di lavorare al Senato, essere distaccato al Senato, prende da 200 a 1000 euro in più di indennità di palazzo. Chi è invece nell'agenzia viaggi, la Carlson Wagon Lit, da 300 a 400 euro in più, l'agenzia di viaggio all'interno del Senato, questi sono i dati che ieri Sergio Rizzo riepilogava sul della sera. Gli impiegati di banca della BNP Paribas, insomma, che gestisce gli sportelli del Senato, da 400 a 750 euro in più per essere. Oppure i vigili urbani distaccati che lavorano lì, magari piantonano, prendono da 150 euro a 500 euro in più per il fatto di lavorare al Senato, e così via, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine. Questo è, cari ascoltatori, il traffico, e rientriamo. Leggo tra l'altro che i vigili del fuoco distaccati possono arrivare fino a 2.000 euro di indennità di palazzo, anche polizia e carabinieri per i ruoli apicali, fino a 2.500 euro, 2.500 euro di indennità, l'indennità che vale più di uno stipendio medio. 800 24 00 24, ci ha chiamato Chetti da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io volevo, sono un po' più maliziosa. Secondo me, visto che i nostri signori parlamentari hanno avuto delle piccole, dei piccoli tagli sul loro stipendio e sul vitalizio, allora questi soldi devono rientrare da qualche altra parte. E siccome la maggior parte di questi dipendenti che lavorano al Senato e alla Camera sono sicuramente parenti, figli, amici dei nostri parlamentari. Che fanno? Si fanno dare parte dello stipendio? Cioè si prendono l'indennità di palazzo e la girano ai politici, mi sta dicendo? No. È che questo io non lo voglio dire, però l'ho detto io seguendo il suo ragionamento. Probabilmente se sei un familiare i soldi restano sempre in famiglia, diciamo. Che ti guardi, non lo so, lei la vengono stati tagli da una parte, però devono entrare sicuramente da un'altra, ma guardi, io non ci credo. No, vabbè, ma in realtà Chetti, l'indennità di palazzo c'era anche prima. Poi voglio dire, come ci ricorderà tra poco anche Ceresani, cioè Ceresani ha vinto un concorso, è stato, cioè, poi vabbè, si può parlare dei concorsi in Italia, ma voglio dire, ha vinto un concorso, non è che è parente di chissà cosa. Comunque tra un attimo le risponde Cristiano Ceresani, che da cui vado tra poco, ricordiamo, il segretario dell'Associazione Consiglieri Parlamentari, uno dei sindacati tra l'altro dei dipendenti. Paolo da Milano però ci ha chiamato anche. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milan. Stendendo un velo pietoso sui concorsi in Italia, io sono un medico. Quello che è sconvolgente dell'argomento che sta trattando questa mattina è quanto sia ancora una volta la conferma di quanto sia sconnessa la politica dal paese. Se parliamo di indennità, per esempio di reperibilità dei medici ospedalieri, già cioè, è una cosa ridicola rispetto a ciò che succede. C'è l'indennità? C'è l'indennità, no. C'è ed è ridicola, ma tipo? Parliamo di 20 euro per la chiamata. Magari lordi. Ma senza parlare dell'ospedalità privata convenzionata, dove abbiamo... Ma 20 euro al mese, scusi? 20 euro alla chiamata o 100 euro la settimana lordi. Ok. Chiaro? Allora, queste sono... A fronte di un vigile urbano che prende 500, piuttosto che, non ho, se ho ben capito, sì, dai 150 ai 500, 2000 euro. Sì, può arrivare a 2000 euro magari quelli che sono lì da tempo. Il concetto è, questa cosa succede dove c'è la politica italiana, ma sul paese reale i cittadini vivono una realtà totalmente diversa, totalmente deregolamentata, senza parlare di come sono i contratti. Sì, è interessante, c'è l'idea della disconnessione tra il paese reale e quello che succede nel palazzo. Ecco, Cristiano Ceresani, questo che imputano ai privilegiati che sono lì come lei. Ecco, questo per tradurla, Ceresani. Guardi, io anzitutto voglio dire che occorre distinguere, che prima parlavamo di personale esterno, sì, e altra cosa il personale di ruolo che io rappresento. Sulla questione della... Ce l'avrà anche lei però l'indennità di palazzo, però, no? No, ecco, no. Questa è una cosa che esistono tanti aspetti che non vengono, diciamo, vengono sempre lasciati ai margini. L'opinione pubblica non sa. Non sa che noi non abbiamo nessun tipo di indennità sulla reperibilità, abbiamo una assoluta incompatibilità con altri mestieri retribuiti. Sì, però vogliamo parlare del... Non esistono i doppi e tripli incarichi. Mi vuol dire lo stipendio, però? No, giusto così, se non violo la privacy, sì. Ma io non ho assolutamente nessun problema, io sono un dirigente della Camera, sono 15 anni quasi che lavoro alla Camera, io ho 150.000 euro di stipendio, non me ne vergogno. È tanto, ma non se ne deve vergognare. Non me ne vergogno perché io non posso fare assolutamente, ho fatto un concorso che è tra i più selettivi in Italia, e dura più di 40 ore, hanno partecipato 8.000-9.000 persone e io lo posso dire, sono arrivato ex aequo tra i primi 16 su test selettivi su 12 materie. Quindi non è potuto fare il concorso da notaio, avrei potuto fare la magistratura. Esistono nella mia categoria tanti colleghi che hanno fatto altri concorsi, li hanno vinti, hanno scelto di lavorare alla Camera, hanno scelto di fare una carriera al servizio delle istituzioni. Ovviamente avevano ben presente che il trattamento sicuramente è buono, ma guardi che la qualità più che lavoro deve essere retribuita. Ma sicuramente sì, ma certamente sì, però voglio dire, su questo mi scusi, la questione degli stipendi, Sergio Rizzo, tu ne hai anche scritto anche ieri, cioè la media al Senato è proprio, tra l'altro, di 149.300 euro, Ceresani a 150.000, ha detto guadagno tanto, non me ne vergogno, sono stato selezionato, ho fatto un concorso duro, però la media degli stipendi dei dipendenti del Senato è 149.000 euro, cioè, e poi con scatti di anzianità ogni due anni, mi pare, che vanno sempre in progressione, o no? Beh, basta fare la divisione. Io non ho fatto altro che prendere il dato che c'è nel bilancio del Senato e dividerlo per il numero di dipendenti. Il risultato è impressionante. Ora, per carità, io capisco che bisogna premiare la qualità, sono funzioni anche molto delicate, no? Però il punto è la differenza tra la retribuzione di una funzione così qualificata che c'è in Italia, per esempio, e quella che c'è, per esempio, in Gran Bretagna, dove è nettamente inferiore. Ora, non si può, come dire, non rilevare che c'è questa differenza, non so come dire. In Italia noi abbiamo delle retribuzioni nel Parlamento che non parliamo soltanto, diciamo, delle funzioni importanti come quelle dei consiglieri o degli stenografi. Quanto guadagnano gli stenografi? Che è un ruolo delicatissimo, perché chi sa fare lo stenografo? Pochi. No, ma gli stenografi hanno le tabelle che avevamo visto noi e arrivano fino al, dopo 40 anni di servizio, arrivavano a 290.000 euro di trattamento retributivo lordo, che 290.000. è una somma, sì, 290, cioè che è una somma francamente mi sembra molto alta. 290.000, per carità. Sì, dopodiché capiamo, io capisco tutto, ma insomma, tutto l'amministratore delegato di una società prende quei soldi lì. No, infatti ho sbagliato tutto nella vita, dico, devo fare lo stenografo, al di là, concedetemi questa battuta, 290.000 dopo 40 anni di carriera con scatti di anzianità per fare lo stenografo alla Camera e al Senato, per carità, sono quelli che battono poi i resoconti per fare tutte... Non ci voglio credere, 290.000 euro. Vabbè, oh, beati loro. Sergio Rizzo, grazie, del Corriere della Sera, e Cristiano Ceresani, segretario dell'Associazione Consiglieri Parlamentari. Ci troviamo domattina alle 7.30. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, ha tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino.